prima lettera di Pietro. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai pellegrini della dispersione residenti nel Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia e Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre nella santificazione dello Spirito, all'obbedienza e alla purificazione del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace abbondino per voi. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, secondo l'abbondanza della sua benevolenza, ci generò di nuovo per una speranza vivente in forza della resurrezione dei morti di Gesù Cristo, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e che non appassisce, conservata nei cieli per voi che siete conservati dalla potenza di Dio mediante la fede, in vista della salvezza che è pronta a manifestarsi nell'ultimo tempo. In prospettiva di questo, gioite, pur soffrendo un poco ora, se è necessario, sotto il peso di prove svariate, affinché la genuinità della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce e che pure viene purificato col fuoco, sia verificata come un titolo di lode, di gloria e di onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Pur non vedendolo, lo amate. Pur non guardandolo ora, ma tuttavia credendo in Lui, esultate di una gioia inesprimibile e già pervasa di gloria, mentre state raggiungendo il traguardo della vostra fede, la salvezza delle anime vostre. Su questa salvezza hanno indagato accuratamente i profeti, che profetarono intorno alla grazia diretta a voi, indagando quale e di quanto valore fosse il tempo che lo Spirito di Cristo in anticipo testimoniava loro, tempo a cui erano riferite le sofferenze per Cristo e l'abbondanza di gloria che sarebbe seguita. Fu loro rivelato che non rendevano un servizio a se stessi, bensì a voi, in tutto questo che ora vi è annunciato da coloro che vi hanno evangelizzato, in forza dello Spirito Santo inviato dal cielo. Gli angeli bramano vedere tutto questo. Perciò, con i fianchi della vostra mente succinti, in uno stato di sobrietà, sperate completamente nella grazia che vi viene portata nella manifestazione di Gesù Cristo. Animati come siete dallo spirito di obbedienza, non uniformatevi più alle passioni sregolate che prima nella vostra ignoranza vi dominavano, ma in conformità col santo che vi chiamò, diventate santi anche voi in tutto il vostro comportamento, poiché sta scritto: siate santi, poiché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi personali, secondo l'operato di ciascuno, comportatevi nel tempo del vostro passaggio sulla terra con un senso di timore religioso, consapevoli che non siete stati riscattati dalla vostra vita insulsa, ereditata dai vostri padri a prezzo di oro e di argento, elementi corruttibili, ma per mezzo del sangue prezioso di Cristo, che ha svolto la funzione di agnello puro e senza macchia, conosciuto prima della fondazione del mondo, ma rivelatosi alla fine dei tempi per voi, che in forza di lui siete fedeli a Dio che lo risuscitò dai morti e lo glorificò, cosicché la vostra fede e la vostra speranza possano essere indirizzate a Dio. Poiché avete purificato la vostra anima, obbedendo alla verità che vi porta un amore fraterno senza ipocrisia, amatevi costantemente gli uni gli altri con cuore puro, dato che siete stati rigenerati non in forza di un seme mortale, ma in forza di Dio immortale, che vive e rimane in voi in virtù della parola. Poiché ogni mortale è come l'erba, e tutta la sua gloria come fiore di erba. L'erba si inaridisce e il fiore reclina, ma la parola di Dio rimane per sempre. E questa è la parola che vi è stata annunciata col Vangelo. Deponendo dunque ogni cattiveria ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni forma di maldicenza, come bambini neonati anelate al latte spirituale e genuino, affinché per mezzo di esso cresciate in vista della salvezza, dato che avete gustato quanto è amabile il Signore. Avvicinandovi a Lui, la pietra vivente, scartata dagli uomini, ma scelta da Dio e di valore, siete costruiti anche voi come pietre viventi in edificio spirituale, per formare un organismo sacerdotale santo che offra sacrifici spirituali bene accetti a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Per questo si trova nella Scrittura: ecco, pongo in Sion una pietra scelta, angolare, di valore, e chi crede in essa non rimarrà confuso. Il valore è per voi che credete. Per coloro che non credono, la pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra angolare, sasso di inciampo e pietra di scandalo. Essi inciampano disobbedendo alla parola, e a questo inciampo sono destinati. Ma voi siete una stirpe scelta, un organismo sacerdotale, regale, un popolo santo, un popolo destinato ad essere posseduto da Dio, così da annunziare pubblicamente le opere degne di colui che dalle tenebre vi chiamò alla sua luce meravigliosa. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Eravate non beneficati dalla bontà divina, ora invece siete beneficati. Carissimi, vi esorto affinché, in qualità di pellegrini e ospiti sulla terra, vi asteniate dagli impulsi passionali della carne che combattono contro l'anima. La vostra condotta in mezzo ai pagani sia buona, in modo che mentre essi sparlano di voi come malfattori, osservando attentamente, glorifichino Dio in forza delle vostre opere buone nel giorno della sua visita. Sottomettetevi ad ogni istituzione umana in grazia del Signore, sia all'imperatore per la sua autorità suprema, sia ai governatori perché sono inviati da lui per punire i malfattori e a lode di chi opera il bene. Poiché questo è ciò che Dio vuole, compiendo il bene, voi dovete chiudere la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Perché sì, siete liberi, ma non servitevi della vostra libertà come di un paravento per il male. Al contrario, agite come schiavi di Dio. Rispettate tutti, amate i fratelli, abbiate il senso di Dio, rispettate l'imperatore. Voi schiavi domestici, siate sottomessi con tutto il senso di Dio ai padroni, non solo a quelli onesti e comprensivi, ma anche a quelli che sono perversi. Questo infatti è un titolo di benevolenza divina: sopportare dolori in base alla consapevolezza che uno ha di Dio, soffrendo ingiustamente. Che gloria, infatti, se voi, comportandovi male e maltrattati per questo, resistete con costanza. Ma se, facendo il bene e soffrendo per questo, resistete con costanza, questo è un titolo di benemerenza presso Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, poiché Cristo soffrì per voi, lasciando a voi un modello, cosicché voi seguiate le sue orme. Egli non commise peccato, né fu trovato inganno sulla sua bocca. Insultato non restituiva l'insulto, soffrendo non minacciava, ma si affidava a colui che giudica rettamente. Egli prese su di sé i nostri peccati e li portò nel suo corpo sulla croce, affinché, venendo meno ai peccati, viviamo per la rettitudine morale. Per le percosse da lui ricevute, foste guariti. Eravate infatti sbandati come pecore, ma ora siete ritornati al pastore che vigila sulle anime vostre. Ugualmente, le mogli siano sottomesse ai mariti, in modo che se alcuni di essi non obbediscono alla parola, siano guadagnati per mezzo della condotta delle donne, anche senza la parola, considerando con attenzione la vostra condotta pura, ispirata al senso di Dio. Il loro ornamento non sia quello esteriore, consistente nell'intreccio dei capelli, nel portare oggetti d'oro o nel rivestirsi di abiti preziosi, ma nella loro personalità interiore, basata sull'elemento incorruttibile di uno spirito dolce e tranquillo, che è prezioso al cospetto di Dio. Così, infatti, Un tempo le donne sante che speravano in Dio si adornavano e vivevano sottomesse ai propri mariti, come Sara che obbedì ad Abramo, chiamandolo Signore. Di essa siete divenute figlie, facendo del bene, libere da ogni timore. Ugualmente voi, uomini, abitando insieme alla donna con intelligenza, rendete il debito onore alla persona più debole della donna, ad essa che partecipa alla vostra stessa eredità di grazia, in modo che le vostre preghiere non vengano respinte. Infine, siate tutti unanimi, comprensivi, amanti dei fratelli, ben disposti, umili, senza rendere male per male e offesa per offesa, anzi, al contrario, benedicendo, proprio perché a questo foste chiamati, a ereditare la benedizione divina. Chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni lieti, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal pronunciare inganno. Si allontani dal male e faccia il bene, cerchi la pace con costanza e forza, poiché gli occhi del Signore si posano sopra i giusti e i suoi orecchi sono protesi all'ascolto delle loro preghiere, mentre la faccia del Signore è contro chi compie il male. E chi potrà nuocervi se voi sarete ferventi nel bene? Ma anche se dovete soffrire a causa della giustizia, beati voi. Non vi fate prendere dal timore che vogliono incutere costoro. Non vi turbate, ma santificate Cristo Signore nei vostri cuori, pronti sempre a dare una risposta a chi vi chiede il motivo della vostra speranza, ma con mitezza e rispetto, con una coscienza retta, in modo che coloro che vi calunniano abbiano a vergognarsi di ciò che dicono, sparlando di voi, a causa della vostra condotta intemerata in unione con Cristo. È meglio, infatti, se così esige la volontà di Dio, che voi soffriate facendo il bene che facendo il male. Poiché anche Cristo morì una volta per i peccati, egli che era giusto, a favore di non giusti, affinché, messo a morte nella carne, ma vivificato nello spirito, vi potesse condurre a Dio. In esso andò a portare l'annuncio anche agli spiriti nella prigione, a coloro che erano stati un tempo disobbedienti, quando Dio, nella sua longanimità, attese, nei giorni di Noè, che fosse costruita l'arca, nella quale 8 persone in tutto trovarono scampo dall'acqua, figura questa del battesimo che ora salva voi. Esso non è un deporre la sordidezza materiale, ma l'impegno preso con Dio di una coscienza retta, in forza della risurrezione di Gesù Cristo, che sta alla destra di Dio, che è salito in cielo sottomettendo a sé gli angeli, le virtù e le potenze celesti. Avendo dunque Cristo sofferto nella carne, armatevi anche voi della stessa mentalità, perché chi soffre nella carne ha rotto col peccato, per vivere il tempo che gli rimane non secondo gli impulsi passionali, umani, ma secondo la volontà di Dio. Basta col tempo trascorso in cui vi siete abbandonati a soddisfare le passioni dei pagani, vivendo in dissolutezze, desideri sfrenati, orge di vino, banchetti, eccessi nel bere e nel culto illegittimo degli idoli. Per il fatto che essi sono sorpresi che voi non corriate più con loro agli stessi eccessi licenziosi, sparlano di voi. Essi ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti anche i morti sono stati evangelizzati, cosicché anche se giudicati come gli uomini nella carne, vivano, secondo Dio, nello spirito. Si è approssimata la fine di tutto. Siate dunque saggi e sobri per poter pregare. Ma prima di tutto abbiate un amore costante tra di voi, poiché l'amore ricopre la moltitudine dei peccati. Siate ospitali reciprocamente, senza lamentele. Secondo il dono ricevuto da ciascuno, siate gli uni a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia divina. Chi parla, parli parole di Dio. Chi serve, lo faccia in base a quella energia che elargisce Dio, in modo che in tutto Dio sia glorificato per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la forza per i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non vi sconcertate per il fuoco che è venuto sopra di voi per mettervi alla prova, come se vi capitasse qualcosa di strano. ma poiché prendete parte alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, in modo che esultiate di gioia anche al momento della sua manifestazione. Se siete scherniti per il nome di Cristo, beati voi, perché dimora su di voi lo spirito della gloria di Dio. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o come spione degli altri. Ma se soffre come cristiano, non se ne vergogni. Glorifichi anzi Dio con questo nome. Poiché è venuto il tempo dell'inizio del giudizio della casa di Dio. Se inizia prima da voi, quale sarà l'esito finale di coloro che disobbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto a fatica si salva, dove apparirà l'empio e il peccatore? Così anche coloro che soffrono secondo la volontà di Dio presentino le loro vite a Dio creatore fedele in un contesto di opere buone. Esorto dunque i vostri presbiteri, io con presbitero, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che si manifesterà. Pascete il gregge di Dio che vi è stato affidato, sorvegliandolo non per costrizione, ma di cuore secondo Dio, non alla ricerca turpe di denaro, ma con dedizione interiore, e non come se foste voi i padroni nella porzione degli eletti, ma facendovi modello del gregge. E quando il pastore per eccellenza si manifesterà, otterrete la corona incorruttibile di gloria. Parimenti, voi giovani, sottomettetevi ai presbiteri. Tutti rivestitevi di umiltà nei rapporti reciproci, poiché Dio si oppone ai superbi ed elargisce la sua benevolenza agli umili. Siate umili sotto la mano potente di Dio, affinché Egli vi esalti a suo tempo, scaricando su di Lui tutte le vostre preoccupazioni, poiché Gli state a cuore. Siate sobri, vigilanti. Il vostro nemico, il diavolo, va in giro come un leone ruggente, cercando qualcuno da divorare. Resistetegli stando saldi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze sono inflitte nel mondo anche ai vostri fratelli. Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in unione con Cristo, perfezionerà voi che per un breve periodo dovrete soffrire. Vi consoliderà, vi robustirà, vi darà un fondamento. A Lui la potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per mezzo di Silvano, che ci è fratello fedele, vi ho scritto brevemente, come credo, esortando e testimoniando che questa è vera grazia di Dio. State saldi in essa. Vi abbraccia la comunità radunata in Babilonia e Marco, figlio mio, salutatevi reciprocamente col bacio di amore. Pace a voi tutti che aderite a Cristo.